Ore 11:49, sempre dagli 87-900 di Radio Onda Rossa. Dunque, siamo al telefono con un lavoratore responsabile Cobas del settore dell'igiene ambientale, e Vincenzo di Castrovillari. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ieri è successo un fatto, insomma, particolare lì a Castrovillari, perché c'è una lotta in corso da parte degli operatori che rivendicano delle mensilità arretrate non pagate, e ieri c'è stata un'assemblea. Raccontaci quello che è successo, diccelo direttamente tu, Vincenzo. Quello che è successo, anzi vorrei dire proprio il più essenziale, qui a Castrovillari, gli operai della Femotet, una società per la raccolta rifiuti nella città, sono scesi in piazza a protestare davanti alla Banca Nazionale del Lavoro. Per cui Castrovillari vendono due stipendi gli operai, più la quattordicesima, gli operai Femotet in piazza a protestare ieri mattina davanti la sede della Banca Nazionale del Lavoro da parte di una trentina di lavoratori della Femotet, società Castrovillari che si occupa della raccolta porta a porta dei rifiuti. Si tratta di operatori che aspettano le mensilità. Lo stipendio di giugno è quello di luglio che sta maturando, e padri di famiglie che debbono necessariamente mandare avanti la famiglia e la loro quotidianità. Un'azienda che al collasso, che attende il pagamento dei soldi della pubblica amministrazione e i mandati coperti dai soldi che il comune di Castrovillari ha ottenuto dallo Stato centrale per pagare i suoi fornitori. Ma di euro l'istituto bancario non ne ha erogato nemmeno un euro. Alle 11 interviene la polizia dello Stato e i carabinieri. E per cui sono entrati dentro la banca solo responsabile della CGL, a me responsabile dei Cobas non mi hanno fatto entrare, per cui sta succedendo una cosa molto strana qui a Castrovillari. Con questa società portano un massacro sociale dei dipendenti, o meglio li portano al suicidio, sono al collasso. Senti, questo intervento da parte della polizia come si è concretizzato, diciamo? Si è concretizzato, bonariamente. Non c'è stato nessun incidente. Comunque, sempre con il pericolo, perché ci sono padri di famiglia che veramente non hanno da mangiare per i propri figli. Magari sbirciano anche nei cestini dell'umido per poter mangiare qualche cosa e sfamare i propri figli, e questo non è accettabile, nella Costituzione italiana. La vostra è una lotta che dura da tempo, nel senso che è da tempo che richiedete che vengano pagate queste mercedi arretrate, perché ci sono stati degli scioperi anche nei mesi passati. Sì, ci sono state già in altri mesi scorsi queste problematiche, ma purtroppo il primo cittadino di Castrovillari non ha mai preso a cuore la situazione, perché è anche un esponente politico della stessa dello stesso partito. E per cui si fanno i favori a vicenda. E senti, adesso a seguito di questa reazione di ieri e del modo in cui è andata questa iniziativa, cosa farete? Reazioni da parte dei gestori dell'azienda ce ne sono state? Sì, c'è stato il directment, il datore di lavoro. E poi c'è stato l'intervento del primo cittadino, il sindaco, e per cui con una bacchettata ha mandato tutti a lavorare, a riprendere il lavoro per l'interruzione del servizio. Ma purtroppo i lavoratori a pancia vuota non penso che sia tanto bello andare a lavorare, no? Eh no, credo proprio di no, per cui sicuramente ci sarà, insomma, da baccagliare, diciamo, anche in maniera dura nei prossimi giorni. Anche gli schiavi ai tempi di Mosè gli si dava molto da mangiare, perché dovevano essere forti gli schiavi per poter lavorare e rendere di più. Invece qui ci fanno morire di fame. In effetti hai ragione, diciamo, a paragonare la situazione odierna a quella di quei tempi, perché stiamo lì, ci stiamo davvero per arrivare. Senti, mi è sembrato di capire oltretutto che ci sono anche così delle problematiche inerenti, diciamo, la gestione dello sciopero, cioè nel senso il fatto che ci sono delle ingerenze rispetto alle vostre decisioni di quando scioperare. Questo secondo me comunque è la privatizzazione che ci sta portando a tutto questo, e anche da mettere questo, perché la privatizzazione dei servizi pubblici non la vedo proprio io. Certo. Va bene, Vincenzo, senti, nel caso ci fossero nei prossimi giorni delle iniziative, noi ci risentiremo, adesso che insomma abbiamo stabilito questo contatto, quindi contate pure su Onda Rossa per qualsiasi tipo di informazione, di notizia. Io vi ringrazio moltissimo comunque dell'intervento che mi avete fatto far fare. Comunque io oggi all'1 dovremmo avere un altro intervento con il sindaco, vediamo un pochettino cosa esce fuori. D'accordo, vediamo allora cosa succede nei prossimi giorni. Un caro saluto e a presto. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao. Arrivederci.